Sebbene assorbita dalla compassione ispiratale da un lacchè de Guermantes, che non poteva andare a trovare la fidanzata nemmeno quando la duchessa usciva, perché la portineria si sarebbe subito incaricata di informarne chi di dovere, Françoise si rammaricò di non essere stata in casa al momento della visita di Saint-Loup. Il fatto è che anche lei adesso ne faceva. Usciva infallibilmente nei giorni in cui avevo bisogno di lei. Era ogni volta per andare a trovare il fratello, la nipote e soprattutto la figlia da poco arrivata a Parigi. Il carattere familiare di queste visite di Françoise acuiva la mia irritazione di vedermi costretto a fare a meno del suo servizio, perché prevedevo che di ciascuna di esse avrebbe parlato come di un dovere imprescindibile, secondo le leggi vigenti a Saint-André-des-Champs. Così non ascoltavo mai le sue scuse senza un malumore davvero ingiusto, che veniva portato al parossismo da Françoise quando, anziché «Sono stata a trovare mio fratello, sono stata a trovare mia nipote», diceva «Sono stata a trovare il fratello, sono entrata di corsa a salutare la nipote». Oppure mia nipote macellaia. Quanto alla figlia, Françoise avrebbe voluto che tornasse a Combray, ma la neo-parigina, abbreviando i nomi come una donna di mondo, però in modo volgare, affermava che una settimana passata a Combray le sarebbe parsa interminabile senza il suo intrant. Ancor meno le sarebbe garbato di andare dalla sorella di Françoise, che abitava in una regione montagnosa, perché le montagne, sosteneva, dando a interessante un senso nuovo e spaventoso, sono ben poco interessanti. Non poteva rassegnarsi a tornare a Méséglise, dove la gente è talmente stupida, e al mercato le comari, le cicalone, si sarebbero scoperte sue cugine e avrebbero detto: «Toh, ma non è la figlia del povero Basirò!» Avrebbe preferito morire piuttosto che tornare a stabilirsi laggiù, adesso che aveva assaggiato la vita parigina, e la pur tradizionalista Françoise sorrideva compiaciuta dello spirito di innovazione incarnato dalla neo-parigina quando costei diceva: «Ebbene, madre, se non hai il tuo giorno di libertà, basta che mi mandi un pneu». Era tornato il freddo. «Uscire? E perché? Per buscarsi un malanno?» sentenziava Françoise, che preferiva restarsene in casa durante la settimana che figlia, fratello e macellaia trascorrevano a Combray. D'altronde, ultima seguace nella quale sopravviveva oscuramente la dottrina fisica di zia Léonie, Françoise, riferendosi a quel maltempo fuori stagione, aggiungeva: «Ah, è quel che resta della collera divina!» Ma alle sue lamentele io rispondevo solo con un sorriso pieno di languore, indifferente a queste predizioni, visto che, per me, il sereno era comunque garantito. Già vedevo scintillare il sole del mattino sulla collina di Fiesole, mi crogiolavo ai suoi raggi. La loro forza mi costringeva ad aprire e socchiudere, sorridendo, le palpebre, che si riempivano di un chiarore rosato come l'umida alabastro. Non erano solo le campane a tornare dall'Italia, l'Italia era venuta con loro. Le mie mani fedeli non avrebbero risparmiato fiori per onorare l'anniversario del viaggio che avrei dovuto fare quella volta, giacché da quando a Parigi il tempo si era rimesso al freddo, come l'altr'anno verso la fine della Quaresima, all'epoca dei nostri preparativi di partenza, nell'aria liquida e gelida in cui erano immersi gli ipocastani, i platani dei boulevard, l'albero del cortile di casa nostra, già accennavano a schiudere i loro petali, come in una coppa d'acqua pura, i narcisi, le giunchiglie e gli anemoni del Ponte Vecchio. Mio padre ci raccontò di aver saputo da Agé dove si recasse il signor di Norpois quando lo incontrava nel palazzo. «Vada Madame de Villeparisis, non sapevo che la conoscesse, e molto bene, anzi. Pare che sia una persona deliziosa, una donna superiore. Dovresti andare a farle visita», aggiunse. Del resto, Norpois mi ha davvero stupito. Mi ha parlato del signor di Guermantes come di un uomo molto distinto. A me era sempre parso un bruto. Dice che sa un'infinità di cose, che ha un gusto finissimo, solo che è troppo orgoglioso del suo nome e delle sue parentele. D'altronde, a sentire Norpois, gode di un enorme prestigio, non solo qui, ma in tutta Europa. Sembra che l'imperatore d'Austria, l'imperatore di Russia, lo trattino in tutto e per tutto come un amico. Il vecchio Norpois mi ha detto anche che Madame de Villeparisis ha una grande simpatia per te e che nel suo salotto incontreresti gente interessante. Lui mi ha tessuto le tue lodi. Ci troverai anche lui e potrebbe esserti prezioso con i suoi consigli, anche se devi scrivere. Ormai capisco che è quello che finirai per fare. C'è chi la trova una bella carriera. Io, personalmente, avrei preferito qualcos'altro. Ma presto sarai un uomo. Non ti saremo vicini per sempre. Non dobbiamo impedirti di seguire la tua vocazione. Se almeno avessi potuto cominciare a scrivere. Ma in qualsiasi condizione io mi accostassi a un tale progetto, così come, ahimè, a quelli di non bere più alcol, di coricarmi di buon'ora, di dormire, di star bene, mi ci applicassi con trasporto, con metodo, con piacere, privandomi di una passeggiata, rimandandola e serbandomela come ricompensa, approfittando di un'ora di benessere fisico, utilizzando l'inazione forzata di un giorno di malattia, il risultato finale dei miei sforzi era sempre soltanto una pagina bianca, vergine di ogni scrittura, ineluttabile come la carta predestinata, che certe volte si finisce fatalmente col prendere, per quanto si sia cercato in tutti i modi, prima di confondere il gioco. Ero un semplice strumento di certe abitudini, di non lavorare, di non andare a letto, di non dormire, che dovevano realizzarsi a qualunque costo. Se non opponevo loro alcuna resistenza, se mi accontentavo del pretesto che esse traevano ogni giorno dalla prima circostanza propizia per lasciarle agire a loro piacimento, me la cavavo senza soverchi danni, riposavo comunque qualche ora alla fine della notte, leggevo un poco, non commettevo eccessi. Se invece tentavo di contrastarle, se pretendevo di coricarmi presto, di bere solo acqua, di lavorare, ecco che si irritavano, ricorrevano le brutte maniere, mi facevano star male veramente, ero costretto a raddoppiare la dose d'alcol, restavo sveglio per 2 giorni, non riuscivo nemmeno più a leggere e mi ripromettevo un'altra volta d'essere più ragionevole, vale a dire meno assennato, come una vittima che si lascia derubare per paura, se resiste, di essere assassinata. Mio padre, nel frattempo, aveva incontrato qualche volta il duca di Guermantes e adesso che Norpois gliene aveva parlato come di una persona notevole, faceva più attenzione alle sue parole. Il discorso in cortile era caduto appunto su Madame de Villeparisis. Mi ha detto che è sua zia. Lui pronuncia Viparisi. Mi ha detto che è straordinariamente intelligente. Ha aggiunto persino che tiene banco d'intelligenza, aggiunse mio padre, impressionato dalla vaghezza di un'espressione che aveva incontrato qualche volta leggendo dei memorialisti, ma la quale non collegava un significato preciso. Mia madre lo rispettava a tal punto che, vedendolo non indifferente al fatto che Madame de Villeparisis tenesse banco d'intelligenza, attribuì qualche rilievo alla circostanza. Sebbene conoscesse da tempo, grazie alla nonna, l'esatto valore della marchesa, se ne fece immediatamente un concetto più lusinghiero. La nonna, che di salute non stava molto bene, fu dapprima contraria alla visita, poi se ne disinteressò. Da quando occupavamo il nostro nuovo appartamento, Madame de Villeparisis le aveva chiesto diverse volte di andare a trovarla, e ogni volta la nonna le aveva risposto che in quel momento non usciva di casa, con una di quelle sue lettere che, secondo un'abitudine nuova e a noi incomprensibile, non sigillava più personalmente, lasciando a Françoise l'incarico di chiuderle. Io poi, incapace di raffigurarmi esattamente quel banco d'intelligenza, non mi sarei stupito di trovare la vecchia signora di Balbec installata dietro il banco di una scrivania, cosa che del resto accadde realmente. A mio padre, oltretutto, sarebbe piaciuto sapere se l'appoggio dell'ambasciatore gli avrebbe assicurato un buon numero di voti all'Istituto, dove contava di presentarsi come membro libero. Per la verità, pur non osando dubitare dell'appoggio di Norpois, non ne possedeva la certezza. Aveva pensato a maldicenze quando qualcuno al ministero aveva insinuato che il signor di Norpois, desiderando d'essere il solo a rappresentarvi l'Istituto, avrebbe frapposto ogni possibile ostacolo a una candidatura che, d'altronde, gli avrebbe creato un particolare imbarazzo in quel momento, dato che ne sosteneva un'altra. Tuttavia, quando Leroy Beaulieu gli aveva consigliato di presentarsi e aveva fatto un calcolo approssimativo delle sue probabilità di successo, lo aveva colpito che, fra i colleghi sui quali pensava di poter contare nella circostanza, l'eminente economista non avesse citato Norpois. Mio padre non osava porre direttamente la questione all'ex ambasciatore, ma sperava che tornassi dalla mia visita a Madame de Villeparisis con la sua elezione in tasca. La visita era imminente. L'appoggio del signor di Norpois, capace in effetti di assicurare a mio padre i 2/3 dell'Académie, gli sembrava del resto assai probabile grazie alla proverbiale compiacenza dell'ambasciatore, il quale, per ammissione degli stessi che l'avevano meno in simpatia, amava come nessun altro interporre i suoi buoni uffici. Senza dire che, al ministero, esercitava nei confronti di mio padre una protezione di cui non godeva nessun altro funzionario. Mio padre fece un altro incontro, ma tale, questo, da provocargli una sorpresa e poi un'indignazione estreme. S'imbatté per strada in Madame Sazerat, che, per relativa povertà, riduceva la propria vita parigina a rari soggiorni in casa di un'amica. Nessuno al mondo annoiava mio padre quanto Madame Sazerat, al punto che la mamma, una volta all'anno, era costretta a dirgli con voce dolce e supplichevole: «Amico mio, bisognerà proprio che una volta o l'altra io inviti Madame Sazerat, non si fermerà fino a tardi». E persino: «Ascolta, amico mio, devo chiederti un grosso sacrificio. Va a fare una visitina a Madame Sazerat. Sai che non mi piace darti delle seccature, ma sarebbe così gentile da parte tua». Lui rideva, s'arrabbiava un po' e andava a fare la visitina. Benché dunque Madame Sazerat non lo divertisse affatto, mio padre, incontrandola, si diresse verso di lei togliendosi il cappello. Ma, con sua immensa sorpresa, Madame Sazerat si limitò ad un cenno di saluto gelido, come rivolto per forza di cortesia a qualcuno che si sia macchiato d'una cattiva azione o sia condannato a vivere per sempre in un diverso emisfero. Mio padre era tornato a casa seccato e stupefatto. Il giorno successivo, mia madre incontrò in un salotto Madame Sazerat, la quale non le tese la mano e le sorrise con aria vaga e triste, come si può sorridere a una compagna di giochi dell'infanzia con cui, in seguito, si sia troncato ogni rapporto perché ha condotto una vita dissoluta, contratto matrimonio con un forzato o, peggio ancora, con un divorziato. Ora, a Madame Sazerat, i miei genitori accordavano e ispiravano da sempre la stima più profonda. Ma, e questo mia madre lo ignorava, Madame Sazerat, unico esemplare della specie in tutta Combré, era dreyfusista. Mio padre, amico di Méline, era convinto della colpevolezza di Dreyfus. Aveva mandato al diavolo alcuni colleghi che gli avevano chiesto di firmare un appello revisionista. Accortosi che io seguivo una diversa linea di condotta, non mi parlò per 8 giorni. Le sue opinioni erano note. Era considerato un nazionalista o quasi. Quanto alla nonna, unica della famiglia disponibile in apparenza a infiammarsi per un dubbio generoso, ogni volta che le si parlava della possibile innocenza di Dreyfus, faceva con la testa un cenno di cui allora non capivamo il senso e che sembrava quello di una persona disturbata mentre sta pensando a cose più serie. Mia madre, divisa fra l'amore per mio padre e la speranza che io fossi intelligente, persisteva in un'indecisione che traduceva col silenzio. Mio nonno, infine, che adorava l'esercito, sebbene gli obblighi di guardia nazionale fossero stati l'incubo dei suoi anni maturi, a Combré, vedendo sfilare un reggimento davanti al cancello, non mancava mai di scoprirsi al passaggio del colonnello e della bandiera. Ce n'era abbastanza perché Madame Sazerat, che conosceva a fondo la vita disinteressata e onorata di mio padre e di mio nonno, li considerasse degli scherani dell'ingiustizia. Si perdonano i crimini individuali, ma non la partecipazione a un crimine collettivo. Non appena seppe che mio padre era antidreyfusista, Madame Sazerat pose fra sé e lui dei continenti e dei secoli. Si può quindi capire come, attraverso una simile distanza temporale e spaziale, il suo saluto sia parso impercettibile a mio padre e lei non abbia neppure pensato a una stretta di mano e a uno scambio di parole che, comunque, non avrebbero mai potuto valicare i mondi che li separavano.